oltrepassando i limiti. Non tornerò senza prima averlo ucciso. No, aiuto! Sei fortunato ad aver incontrato me. Ma adesso dimmi, a che specie appartieni? Satan. Un essere terribile. Sono limitata non può guardare di poco voglio vedere. A volte una bella lezione salutare per certa gente. No, aiuto! Ecco, siamo pronti per una bella prova. Pronti? Entro, forza. Ecco, adesso... Che fatica. Spingi, sono quasi dentro. Dai! Allora, come va? Ti ci trovi bene? Mi sembra un po' stretta. No, mi piace.